per una voce popolare, che noi la deviamo schifare perché la lingua comune d'Italia non l'usa, perché non è in Dante né nel Petrarca né nel Boccaccio, a me non pare. Né credo che una lingua che vive sia nello scrivere obbligata a raccogliere solamente, quasi gocciole dalle grondaie, le parole di pochi e morti scrittori, ma debba attingere dal perenne fonte della città le più efficaci e vive proprietà naturali che con impeto scoccano e fiedono l'animo per diritta via e brevissima. E molte volte significano più che non dicono, come i colpi fieri e gli scorci nella pittura. Bernardo d'Avanzati.